Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera da Maurizio Calzavara, dal mitico Michele Ottosoni in regia, e stasera abbiamo un musicista di Parma. Hai fatto un po' di viaggio, però sei arrivato senza nessun problema, con qualche interruzione. Ho sentito che c'era un po' di traffico da Parma fino a qua. Un po' di acqua anche. Un po' di acqua, tanta acqua. Fabrizio Frabetti, buonasera Fabrizio. Buonasera a te, buonasera a tutti. Sì, un po' di acqua, ma si supera, il personale si supera tutto, cosa dici? Sì, anche l'acqua, anche l'acqua. Qualche chilometro si fa. Qualche chilometro si fa. Sei un cantautore, ma io ho scritto nel sito un cantautore atipico, nel senso che è una parabola interessante. Come è iniziato, hai avuto l'idea di fare il cantautore, sempre tra virgolette, come è iniziata l'idea, come è partito, l'input? Ma penso di aver emulato quelli che mi piacevano. Emulato quelli che piacevano, cioè come punto di riferimento, come input. Beh, se andiamo indietro, io ho ascoltato moltissimo Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Edoardo Bennato, De André. Ma dal conservatorio classico di Parma al punk, che, come mai a questa un po' diversa visione della musica? Ma sai, dopo un anno passato a trovare l'impostazione giusta della mano, no? La posizione sulla tastiera. È difficile. Sì, che è difficile. E senza riuscire ad arrivare a nessun risultato udibile. Sì, che dimmi, il conservatorio di Parma è uno dei più importanti d'Italia. Quindi. Sì, avevo poi una maestra bravissima di pianoforte. Che era una coreana e aveva un'impostazione talmente perfetta da richiedere la perfezione anche ai suoi allievi. E quindi dopo mesi e mesi di tentativi di fare uscire la nocchia, di far alzare la nocchia della mano quando schiacciavo un tasto. Com'è la nocchia della mano, interessante? Sì, perché quando suoni con il peso del braccio, sì. Senza fare uno sforzo, diciamo, con il dito, quando la mano è nella posizione corretta, nel momento in cui schiacci un tasto, esce la nocchia dalla parte superiore della mano. Ti stanno vedendo adesso con la telecamera la tua posizione del dito del pianoforte, quindi è questo il discorso. Quindi è stata una cosa che mi ha fatto fuggire direttamente, cambiare tipo di studi e di interessi. Ti sei buttato qua, ho scritto nelle note un po' all'hippie punk. Cosa vuol dire hippie punk? Ma vuol dire che ho ascoltato tantissime cose, esatto, che partono dai Sex Pistols o da Frank Anthony sì, esatto, che è un mitico personaggio di quelle parti. E quindi poi arrivano al periodo degli anni 60 e 70 e poi tante cose. Insomma, io ho ascoltato molti tipi di musica diversa e ho cercato da autodidatta di emulare, comunque di suonare le cose che mi piacevano, e da lì a tentare di musicare qualche parola mia è stato una conseguenza. Sì, certamente una conseguenza di tutto. E poi il discorso anche delle piste teatrali, anche ami anche a fare questo, oltre a suonare e a cantare. Ma quella è una passione più recente. Io mi ricordo la prima volta che è andato Marco Paolini in televisione con il Vaillant. Strepitoso. Che sono state, cioè è stata una scoperta, proprio una cosa che non mi aspettavo, non conoscevo quel tipo di narrazione. Ho passato le mie tre ore con la bocca aperta, come del resto tutti. Gran parte di esatto. Sì, tutti le persone che passavano davanti alla televisione in quel momento, e da lì ho conosciuto vari autori. Mi piace molto la narrazione, e poi la mia è un'attività insomma dilettantistica, scrivo le mie storie. Visto che hai scritto anche un libro che non è ancora stato pubblicato, però potrebbe essere pubblicato, eccetera. Ma sì, ho scritto due libri, uno con altre due autrici, ed è stato pubblicato effettivamente. Si chiama Il padrone dell'ospedale vecchio, e è stato stampato da un editore che è Maccari Editore, e è una raccolta di storie di quartiere, del mio quartiere, che è l'Oltretorrente di Parma, e ed è un quartiere storico, insomma, certo, popolare. E poi invece un altro libro più fantasioso è stato Senza binari, dal quale poi ho tratto il primo dei miei racconti musicali. Cioè, i tuoi racconti musicali, chiaramente. Sì, che in effetti è stato, sono state le prime cose che ho fatto che mescolavano teatro a musica. A musica, praticamente. Sì. Dopo, come mi dicevi a microfono spento, con molta fatica finalmente sei riuscito ad incidere un disco. Sì, invece sono arrivato a 40 anni. A 40 anni, beh, perché sei ancora giovane, decisamente giovane rispetto al sottoscritto, molto più giovane. Quindi sei arrivato, però è importante incidere un disco personale, tuo. È una cosa, beh, fantastica. Sì, vuol dire che qualcosa hai fatto, insomma, è quello lì. Esattamente. È un bel risultato, dai. Sì, è stata poi tra l'altro un'esperienza enorme anche per me. È cambiato anche il modo di capire la musica quando l'ascolto. Certo. Ok, allora apriamo la finestra come facciamo di solito e cominciamo a sentire musicalmente parlando e poi suonerai uno dei pezzi dell'album. Tu hai scelto la traccia numero 9, che è l'ultima traccia del disco. Si chiama proprio U, per farla sentire i nostri ascoltatori. Ne vuoi parlare adesso o ne parliamo dopo? Se vuoi parliamone dopo. Parliamone dopo, allora sentiamo assieme. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, Fabrizio. Abbiamo sentito la title track. Una volta si chiamava la title track. Cioè la... Penso ancora. Sì, si chiama ancora dalle grandi radio. Dico title track, ma anche noi diciamo title track. Questo bello perché vedi subito, senti subito questo suono immediatamente. Titolo, come hai detto giustamente, a microfoni spenti, io e te parlavamo. Titolo breve perché da subito entra immediatamente in circolo. Cosa dici? Beh, sì, infatti era quell'intenzione lì. E poi ero contento di andare a cercare un nonsense. Okay. Perché fatico a prendermi sul serio. Tanto, insomma. Beh, insomma, va bene, è giusto anche questo. E musicalmente, com'è nato questo pezzo, traccia numero 9, che termina questa cavalcata delle 9 tracce del disco? Ma guarda, questo è stato un pezzo abbastanza di getto, scritto di getto, cosa molto rara per me. Perché non è il mio modo di scrivere. Per quanto riguarda la musica, e invece il testo viene fuori da alcuni appunti che avevo preso una volta mentre guidavo la macchina. Avevi qualche idea, quindi poi l'hai messa dentro. Sì, ho visto delle cose che mi hanno fatto pensare. E come, ma come crei i pezzi? C'è un accordo di chitarra, da quello si sviluppa, si amplia, oppure prendi la tastiera e giochi sulla tastiera? Ma no, nel mio caso... Tutto parte sempre dal testo, nel senso che io scrivo, prendo appunti di cose che mi colpiscono, di parole, frasi, a volte sono cose molto disconnesse tra loro, insomma, e quindi mi capita spesso di scrivere, ho un archivio di cose scritte e che ogni tanto vado a sfogliare e ci trovo un qualcosa che sto provando in quel momento lì in cui le sfoglio, e quelli di solito sono i momenti in cui mi viene anche in mente di prendere in mano la chitarra. Certo, mi dicevi, sempre parlando fra me e te, che hai tante canzoni pronte, ferme, cioè che possono essere sviluppate, però hai deciso di scegliere 9 per fare un discorso completo. Sì, io cosa scrivo... tu la cerca? Guarda, ho scritto le prime canzoni che avevo, secondo me, 17-18 anni, quindi ho avuto tempo di per accumularle. Scriverne altre ancora. Adesso non è che mi piacciono tutte. No, ma chiaramente. In molte non mi ritrovo più, però in tante altre invece mi trovo ancora, o quantomeno vi trovo degli spunti per lavorare ancora adesso, cambiarle, migliorarle secondo il mio gusto di adesso. E quindi insomma ho una certa riserva per continuare, ho intenzione di registrare altre cose. E parliamo, tu hai detto che sei partito dal testo, e musicalmente come lo consideri, come lo definisci? Praticamente. Musicalmente? Sì, musicalmente, un brano cadenzato, un po' caldo, un po' vivace, cosa dici? Oh, questa è una domanda difficile perché... non è che sia partito da un genere, quindi non no, no, parlo del genere. Che sensazioni hai avuto quando lo hai scritto praticamente, musicalmente? A cosa ti sei idealmente riferito nell'ambito? Allora, ci sono dentro delle sonorità. Mi interessa sapere proprio delle sonorità, questo mi interessa. Sì, allora, questa canzone è nata già sul multitraccia, questo è un discorso tecnico che probabilmente sembra lontano, ma non lo è. Ma non lo è. Perché con questa canzone ho sperimentato degli effetti di arrangiamento che quel giorno lì mi andava di sperimentare, diciamo. E poi mi è piaciuta. È per quel motivo che hai messa nella traccia numero 9? Perché volevi sperimentare musicalmente un discorso anche per quello, oppure è una casualità? Traccia numero 9 si chiama Who. Ma diciamo che più o meno è una casualità. Ho capito, perché spesso non capita, però qualche volta capita, i musicisti quando vengono qua e faccio questa domanda, le tracce sono volutamente inserite in questa maniera. Non è il tuo caso anche per te? Ma no, ci abbiamo pensato su un po', ecco, a come, qualcosina a come c'è fare la scaletta, non è sicuramente casuale. Questo è il pezzo Guarda, secondo me è più radiofonico, ma poi è un'opinione mia che non è detto che sia la tua, che invece la radio la fai davvero. E quindi è una... La faccio davvero su due ore. Sì, musicalmente sì, può essere vero questo. E quindi dici. Cioè, per radiofonico intendo dire semplicemente cioè, che cioè, è si può sentire facile. Esatto, non dà fastidio all'ascolto, vuoi dire questo? Insomma. Sì, è meno ruvido. È meno ruvido, pezzi. Esatto, è meno ruvido. E non mi piaceva partire così perché visto che ma immagino che tante volte un ascoltatore distratto o comunque uno che non mi conosce mette su per caso il mio disco perché gli capita insomma sicuramente non parte dall'ultimo. No, certamente no. E visto che è un pezzo un pochino diverso dagli altri, vero, in questo senso mi interessava più dare un'idea di sonorità del disco che più fedele a tutto il disco, che quindi sono altri pezzi, insomma questo è un po' diverso, ecco, per me, anche se la coerenza con il resto del disco io la trovo un po' nelle tematiche. Ecco, ho capito, cioè musicalmente è leggermente diverso, le tematiche no, però musicalmente c'è qualche, non dico sperimentazione, ma qualche, avevi volutamente l'hai creato così perché doveva essere così praticamente. Sì, esatto. Perfetto, abbiamo capito. 22, 23, 26, cosa dici Fabrizio? Sentiamo un altro pezzo dal disco sempre e poi cominciamo a cavalcare musicalmente parlando. Come vuoi tu. Ringraziamo un momento lo staff, oltre a Michele Tosò, mitico Michele in regia, abbiamo alle telecamere Roberto Baldi, la nostra redazione al femminile, la Nicoletta, la Patrizia e Silvia, che ci danno una mano sempre, e il nostro organizzatore e direttore artistico, Alberto Prisco. Adesso partiamo con la traccia numero 4, mi pare, la seconda traccia che ho scelto io, che abbiamo scelto assieme, che è il pezzo che amo particolarmente, che abbiamo sentito per un sacco di tempo qui in radio. Vi ringrazio. Ti ricordi il titolo? Vuoi dire? No, dillo tu. Ah, lo dico io. Mezzo sogno, mi pare. Mezzo sogno. Esattamente. Che anche non me lo ricordavo più. Anche quello è un bel arrangiamento, un po' particolare. Adesso lo sentiamo assieme. Rock Wave. L'onda del rock. Questa notte è così chiara, a luce antica. C'è una luna e non l'ho vista mai, così alta sulla vita. Il cortile ha un cuore, questo gli altri non lo sanno, lo so io che sto alla notte. Appare stelle fino al sonno. We'll be right back. mente così chiara, a luce antica. C'è una luna, non l'ho vista mai, così alta sulla vita. Il cortile ha un cane, gli dà un'anima correndo. Sul confine della notte e del mio sogno, l'onda del rock. Diretta rockwave.alterivista.org. Stasera ci possono vedere Fabrizio e anche sentire fra poco quando suoni. Vabbè, vedere in questo momento puoi salutare, ci stanno vedendo. E parlavamo mentre il disco andava di questo album che l'hai registrato quasi tutto te a casa, però poi sei arrivato alla considerazione assieme al tuo fonico, e poi citeremo che è meglio un acquisto, se mi è consentito il termine, degli strumentisti veri, praticamente. Sì, la prima idea era di fare un disco in cui suonassi tutto io. Una man band in tutti i sensi, allora. Più o meno sì, ma ecco. non per tenermi dei meriti. No, per carità, una no. Una scelta anche di carattere economico. E soprattutto quella. E poi le pretese del disco erano minori di quanto poi sono diventate invece in seguito, e quindi avevo già fatto le mie registrazioni di tutto, e l'accordo con Giordano, che è il fonico, ma adesso dire fonico è riduttivo. No, gli ho detto, mi sono sbagliato, praticamente quello che ha avuto l'idea, come con le tue le ha sviluppate. Ha insistito perché inserissi dei musicisti. Citiamo questi musicisti, dai, visto che ci siamo. Beh, è un gruppo bellissimo. Ecco, citiamo questo gruppo bellissimo. C'è Cristian Pascelupo alla tastiera, c'è Lelio Padovani alla chitarra, che ha svisato nel mezzo sogno. Sì, un pochettino. Tutte le chitarre. Io ho soltanto cantato a questo punto e fatto un assoletto. E poi c'è Max Scaccaglia al basso, e poi la batteria è la De Bandini. Che un mitico è la De Bandini. Forse gli ascoltatori non lo sanno, molti lo sanno, chi ama particolarmente la musica italiana. Ricordiamo che Elia De Bandini ha cominciato con Guccini e poi ha suonato con tutti, ma è il batterista storico di Francesco, praticamente. Sì, è un mito, praticamente, su certe cose. È un mito, e è veramente un grande batterista. È stato, ma comunque sì, devo dire, sono contentissimo di tutte le collaborazioni che ho avuto in questo disco, anzi, che sto avendo da 2 anni in qua, visto che io sono abituato a portare avanti questa mia passione da solo, da sempre, insomma, da moltissimi anni. E da quando ho iniziato con il disco mi sono aperto a queste collaborazioni. Sì, a collaborazioni, ho trovato veramente delle persone splendide con le quali sto andando fuori a suonare adesso, e poi anche altri progetti vedono appunto il coinvolgimento di altri musicisti eccezionali. Sto passando un bel momento dal punto di vista di dal punto di vista musicale, ampli gli orizzonti, crei attraverso quei musicisti sul palco, è una sonorità bella, bella, da adrenalina, o sbaglio, da gioia. È bellissimo avere delle persone che fanno delle cose che tu non riuscivi a immaginare, perché ecco, quando suoni da solo c'è da dire che riesci a realizzare i tuoi progetti, è nel vero. Senso che nessuno ti metterà i bastoni tra le ruote, certo. Se non i tuoi limiti tecnici. E invece quando suoni con della gente brava vanno oltre e quindi a quel punto impari. Ti accrescono, è molto interessante. Bene, adesso è giunto il momento di suonare, cosa dici Fabrizio? Primo pezzo dal vivo. Cosa hai scelto per iniziare questa nostra cavalcata di stasera? Beh, se vuoi suoniamo maggio. Suoniamo proprio maggio, benissimo, visto che siamo nel mese ideale, va sì, benissimo, infatti. Appunto, anche se è un maggio un po' freschetto stasera. Però... Questa canzone parla della fine di maggio. Della fine di maggio, esattamente. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Fine maggio, contro il sole. Vago in auto per campagna. Il giornale radio è pieno di bombe, come nel cielo ci sono le nubi all'orizzonte. Un campo di papaveri e un mare rosso. Il grano sta là sotto, è chiuso in casa e gioca col telecomando. Io mi fermo, abbagliato, lancio un sasso. Ma non serve proprio a... Non serve a un... Non serve. Fine maggio, ma il cielo oggi mi pesa come il coperchio sigillato sulla pentola, pressione di un'attualità di piombo, di una morte che ci sparano e ci spingiamo verso il fondo. Mi fermo incantato dal futuro in picchiata, come il volo del mio sasso. Potrebbe essere un bel giorno. Il mar rosso dei papaveri è una spanna sopra il grano, le nubi all'orizzonte mi portano lontano. E non so proprio cosa c'entri tutto questo con la rabbia delle mani, con il dolore che oggi indosso. Con il peccato che fa questo oceano di gente chiusa in casa da sentire alla forza prepotente, mentre il mondo resta fuori tra la strada e i campi immensi, dove le anime si incontrano alte piene indipendenti. Sia un mare di papaveri, una spanna sopra il grano. Fine maggio, ma il cielo oggi mi pesa come il coperchio sigillato su una pentola, pressione di un'attualità di piombo, di una morte che ci sparano e ci spingiamo verso il fondo. Mi fermo incantato dal futuro in picchiata, come il volo del mio sasso. Del mio sasso. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo, abbiamo sentito maggio. È un talk blues. È un, cioè, questo sì. Assolutamente un talk blues. Un po' recitato all'inizio e poi canti chiaramente. È un talk blues, è bello così. Un po', qualcuno ha scritto che è un po' dilaniano. Ma è un po' di Fabrizio, non è dilaniano, è tuo e basta. Sai, Dylan, giusto, c'è dappertutto e ci sarà sempre, però è tuo e basta. Ma sì, adesso la scelta della parte parlata all'inizio è una cosa che è venuta fuori da quel mio modo di fare spettacoli ibridi tra reading e musica. È nato così, praticamente. È nato in questo modo. È una canzone che ho scritto veramente in una situazione come quella che ho descritto. C'erano campi di papaveri, era maggio, tutto era bellissimo attorno a me, anche se c'erano nubi all'orizzonte che promettevano pioggia, e al tempo stesso io avevo la radio accesa, e la radio accesa diceva che stavano bombardando nel deserto, perché era il periodo della guerra, quando bombardavano in Iraq. In Iraq, certo. E ti è venuto in mente di fare certe considerazioni, giustamente. Cioè sei lì davanti a un campo di papaveri, stai bene, ma veramente bene, perché... E però non è così per tutti, il mondo è grande e soprattutto un po' cattivo. È decisamente cattivo su certe cose. Meglio, cioè, musica tende a pacificare il mondo, però non è mica tanto facile, insomma. Però è giusto tirare fuori i problemi, i temi. Quindi questo campo di papaveri, questa esplosione della natura bellissima, e c'è un po' di solitudine, di tristezza, pensando a cosa succede un po' più avanti, un po' più lontano. Sì, esattamente. Sì, è un po' uno sfogo. È uno sfogo, esattamente. Quindi musicalmente l'hai descritto così. Con la band, come lo fai questo pezzo? C'è la batteria di Elade, c'è la chitarra svisata di Lelio Padovani, eccetera. E tu canti solamente, cioè non partecipi musicalmente, non suoni. Sì, adesso quando andiamo fuori a fare i live uso la chitarra anch'io, poi il gruppo non è lo stesso che ha inciso il disco. Ah, ho capito, cioè, quindi varia praticamente. Se ti va e se me li lasci presentare, presento anche Ma certo, gli amici, ma non se, con se mi va, portando. Mi va, e come? Devi farlo. Beh, adesso alla chitarra c'è Sandro Chierici, che è un chitarrista blues formidabile, e poi c'è al basso Fabio Lanzi, e poi c'è Giovanni Barani alla batteria, anche lui, io devo dire che a batteristi mi sto trattando proprio benissimo, bene. Benissimo. E poi sempre Cristian Pascelupo, invece, è il tastierista che ha suonato anche nel disco. Quindi quello è quasi fisso praticamente, ti segue spesso. Stiamo suonando spesso insieme. E tu hai parlato del chitarrista con un pezzo di blues, di rock blues. Sì, Sandro Chierici. E come lo colora questo pezzo dal vivo? Quindi gli dà allarga il discorso del blues, o rimane sempre nei canoni come tu l'hai scritto? Beh, lui ha dei suoni più acidi, e mi ricorda Eric Clapton come maniera, e quindi insomma fa delle cose oltre a quelle che mi immagino. È sempre il discorso che ti facevo, certo, prima. Certo, ho capito. C'è una libertà sempre nei limiti del discorso. I nostri nei concerti cerchiamo di comportarci in un modo un po' anomalo rispetto a quello che fanno tanti gruppi, nel senso che visto che fortunatamente è un gruppo composto di persone molto brave che si divertono molto a improvvisare e non hanno delle gran necessità di seguire dei copioni, nel momento in cui siamo d'accordo su come deve essere all'incirca fatto, poi ci sono degli spazi di improvvisazione molto ampi per tutti, e questa cosa ci permette anche di divertirci, perché francamente che è uno spettacolo aperto. Non mi diverto molto a fare sempre, capito, i pezzi nello stesso modo, anzi invece che pensare a comunicare, poi penso a seguire gli schemi, a non sbagliare le battute, quindi secondo me è anche più brutto da vedere. ma è interessante, cioè non sei uno dei pochi che ha questa idea, cioè di improvvisare, chiaramente questi sono i pezzi che hai scritto, questi sono i pezzi del disco, però improvvisare da questi pezzi, poi allargare, non è facile, non ci trova spesso e volentieri sul discorso, almeno per un artista emergente, non emergente, perché emergente nel senso che hai inciso per la prima volta un disco, questo voglio dire. Non è questione di coraggio, è questione di visione del modo in modo diverso. Ma sì, insomma, se guardi il jazz, ad esempio, ti dà... Sì, improvvisano sempre, sono d'accordo. Sì, con te. Il nostro genere è diverso, è sicuramente più... bisogna avere molto rispetto per quelli che suonano jazz, perché per carità, delle capacità matematiche e aritmetiche non indifferenti, chiaramente. E, Sì, però l'idea non è balorda, no, si può provare anche certo, qualcun altro, qualcuno che suona del blues, ad esempio. Chiaramente. È un'idea interessante, serve gestire un discorso, allargare il discorso, per me è una cosa fondamentale. Adesso allarghiamo il discorso, facciamo un flash ricordando dei pezzi che tu hai scritto per un gruppo folk praticamente. Sì, i Me Pecche Barba è un gruppo della provincia di Parma e ci conoscevamo già per altri motivi e a un certo punto loro prima di me hanno fatto delle grandi scelte, cioè quelle di mettersi a fare dei dischi. In particolare loro hanno avuto l'appoggio di un produttore importante, soprattutto nel loro genere, che è Alberto Morselli, certo, che è dei ex Modena City Ramble, esatto. E quindi hanno inciso tre dischi finora e nel secondo e nel terzo ci sono rispettivamente due diverse canzoni mie. Mie scritte da me e riprese da loro, arrangiate da loro. Arrangiate da loro in modi loro sì, autonomi, proprio particolari loro autonomi, esatto. Esattamente, è importante, però li hai scritti te, cioè l'input è, sei partito dalla tua penna, poi chiaramente loro le hanno modificate alla loro maniera, però l'autore sei te, questo voglio dire. Sì, e tra l'altro anche quella è un'esperienza bellissima, vedere degli altri che mettono le mani su qualcosa di tuo è una cosa di tuo, e poi le portano in giro, anche andare ai concerti, essere dalla parte del pubblico, è vero, e sentire la tua musica, la gente che vale, perché poi loro fanno fanno ballare la gente, bello. Parecchio, quindi è una soddisfazione. È certo, una cosa bellissima. Allora sentiamo questo pezzo che ti ricorda la traccia, come si intitola? Il pezzo? Banda di Paese e la traccia da questo disco di questa band di folk parmense. Sì, Me Pecche Barba. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Quei giorni in cui la musica cambiò, da un palco preso a Nolo, in un giorno scolorito, il tuo sogno di papà per il nostro aprile col palto, sembrava raccontassi a chi non ha mai vissuto, sembrava che dicessi, non potrete mai sapere, la zanzara che addormenta appunto tutti nel sedere. Banda di paese, nuovi giorni da creare, in attesa del concerto, della festa provinciale, guardavamo il vecchio e il pulpito del pagano e spento rito, covando dentro agli occhi un giorno raccontato, che sembrava che dicesse, non potrete mai sapere, ma intanto raccontava della sua banda di paese. Mi ricordo le donne alla finestra, ricordo i sorrisi, i passi baci, per noi, solo per noi che passavamo, felici il giorno della festa, il giorno più lontano. Di quel sole quando se ne andò a dormire, tra l'odore dei tuoi capelli e dei campi in fine aprile, ed allora non ho tempo di stancarmi di cantare, ed allora sono vento che non smette di fischiare, e ad uno che mi dice, non potrete mai sapere, io ora gli racconto di una banda di paese. Mi ricordo le donne alla finestra, ricordo i sorrisi, passi baci, per noi, solo per noi che passavamo, felici il giorno della festa, il giorno più lontano. E ad uno che mi dice, non potrete mai sapere, io ora gli racconto di una banda di paese. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. È un pezzo che fa divertire, che fa cantare, che fa muovere in Modena City. Grazie. Dobbiamo ribadire il concetto che l'hai scritto te. Dopo, se il lavoro l'hanno ampliato, l'hanno modificato, però parte da te. È una cosa positiva, molto positiva. C'è una grande emozione, come tu hai detto giustamente. Tu essendo nel pubblico e sentire un pezzo che hai scritto da te, suonato da altri. Sì, e poi vedere magari il pubblico che canta i pezzi perché magari li conoscono. È bellissimo. Penso che è il massimo di un musicista. E se è stata difficoltà, Fabrizio, per creare, per incidere questo album? Mi dicevi che è autoprodotto al 100%. Ah, il mio? Sì, certo, parlo del tuo. Sì, autoprodotto completamente. No, particolare difficoltà no. Economica sì. Quello capita, purtroppo. Però è durata la registrazione quanto tempo? Allora, è stato un parto difficile. Perché è durato... Allora, almeno 2 anni da quando ho deciso di farlo. Mm. Poi 1 anno e mezzo da quando ho iniziato a incidere. E poi i vari strumenti li abbiamo aggiunti pian piano con intervalli di 3 mesi. Queste sono state scelte obbligate dal fatto che abbiamo cercato anche un po' di risparmiare sulla sala di incisione. Certo. Di trovare anche i ritmi giusti. Il momento giusto. Perché sì. Quando decidi una sala di registrazione, che chiaramente costa, deve essere pronto immediatamente, non puoi perdere tempo. Non è così. Sì, bisogna cercare di ridurre i costi. Esattamente. Non si può sbagliare. Sì, buona la prima. Quindi allora. Poi i giorni di registrazione in effetti sono stati piuttosto pochi. Però certo. Tra una fase e l'altra sono passate lunghe pause, alla fine sono anche servite perché si è parlato, si è ascoltato, e ascoltato questo disco e anche altri, quindi sono fortunato, cioè mi dico fortunato di aver passato tanto tempo a fianco di persone che ne sapevano più di me e che mi hanno dato molto, insomma, ho imparato tante cose. Ho capito. Una cosa volevo chiederti, determinati, non so, la batteria, la chitarra elettrica, sono pezzi che sono stati incisi dai musicisti al di fuori, poi l'incisione è arrivata nello studio, sono stati assemblati oppure erano presenti anche loro? No, li abbiamo fatti proprio uno per volta. Ah, uno per volta, ho capito. Sì. Per motivi chiaramente di tempo, di tecnici, cioè di disponibilità. Sì, tra l'altro il tutto è stato abbastanza semplificato dal fatto che io, come ti dicevo, avevo già inciso tutte le tracce e quindi praticamente sono state sostituite una per volta le tracce e diciamo in cuffia gli strumentisti avevano già tutto. È un grande lavoro di Cesello allora, praticamente. Beh sì, io ci ho lavorato su parecchio. Però è stato positivo, dai, è un bel disco, è venuto fuori delle belle sonorità, tutte diverse, una diversa dall'altra, però tutte con filo conduttore, come abbiamo già detto, però belle, costruite bene, niente buttato al caso. Sì, ti ringrazio. Sono, io l'ho sentito così quello mio, che nel si, disco. Cioè, è quello che si voleva ottenere, in effetti non... penso che non ci sia, cioè che non abbiamo lasciato niente di casuale. Poi Giordano Occhi che ha curato l'arrangiamento un po' di tutto. Sì, lui in particolare ha fatto soprattutto il fonico e appunto è andato oltre, visto che lui fa produzioni, certo, anche per conto suo. In questo caso è stata mia la direzione artistica, nel senso che volete abbastanza chiare, insomma, su quello che volevo, cioè, però lui ha aiutato molto a chiarirle e poi ha suggerito i modi anche per... Certo, cioè, per tu hai detto, ti hai dato un input, io la vorrei così, questa sonorità, però lui potrà... Ah, tecnicamente sì, quelle cose lì veramente le ha curate lui in pieno. No, è stato, secondo me, un ottimo risultato, essendo un disco emergente, cioè... autoprodotto in tutti i sensi, c'è stato questo tuo collega che ti ha dato una mano, che ha sviluppato il discorso, però le idee sono... In particolare lui è un vero maniaco del suono, ecco. E quindi questa dote, io devo dire che quando si tratta di andare di lima sui testi, sulla musica Cioè anch'io ci passo molto tempo, ma poi proprio sulla qualità audio, sulle rifiniture, sulle rifiniture, no, io sono, dopo aver abbozzato perdo un po' la passione, ecco. E quindi c'è stato molto bisogno di perfetto questo, non perdi la passione per suonare adesso, sei pronto con un altro pezzo, allora prendiamo la chitarra, sì, certamente. Cosa ci fai sentire adesso? Dio del mare. Benissimo, Dio del mare. Rock Wave, l'onda del rock. Ci sei anche tu a guardare il mare, quindi anche tu arrivi al crepuscolo col tuo bel niente da fare, dove la fine del mondo è il pontile, la poppa di una nave di cose da finire, dove c'è il vento che non ti lascia stare, che non ti lascia stare, però i capelli col vento van dove gli pare. Come gabbiani provano a volare, tu stai in piedi e non c'è niente da fare, se ne stanno appoggiati sul fondo aspettando qualcosa, aspettando un segnale. Se sei un dio, volti la schiena a tutto. Se sei un uomo, beh, allora avrai qualcosa da imparare. E le tue mani in cerca di altri panorami, sono strumenti per creare. Un livido in fronte, la faccia da galera, cava gli occhi dalla notte, li ficca nella sera, oltre gli scogli, oltre le luci color rame, oltre la terra insozzata di catrame. Oggi ribeccio mi fa, sono stanco di maestrale, io lo guardo e non ho niente da dire, da dove vieni, dove vai, ed io continuo a farmi i fatti miei. Così saluta e se ne va, camminando sulla schiuma bianca delle sue ultime parole, ed io rimango lì a guardarlo andare, dalla fine del mondo, dal pontile, la schiena di un dio che quella sera aveva voglia di parlare. Oggi ribeccio mi fa, sono stanco di maestrale. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, 22:55, anche questo l'hai colorato in questo momento di blues, leggermente di blues. È una bella cosa, secondo me, mica una brutta cosa. Anche se il pezzo odorava di rock, secondo me, leggermente. Non so se sei d'accordo. Ma, allora, considera che tutti i pezzi di questo disco, dal primo all'ultimo, nascono per essere suonati live da solo, con la chitarra soltanto. Questa è proprio la genesi di tutti questi pezzi. Quanti pezzi. E quindi l'ispirazione dal punto di vista musicale è sempre country blues, il blues delle origini, quello che suonavano nei campi di cotone, sì, esattamente. E anche un po' la tecnica chitarristica, come almeno quella su cui mi baso, poi, che poi prima farle per davvero queste cose qui. No, perché prima hai citato a microfoni spenti con me, li puoi citare anche a microfoni aperti, il discorso delle accordature. Beh sì, utilizzo delle accordature aperte, che significa che le sei corde della chitarra, invece che essere nella sequenza classica, cordatura standard, sono in una sequenza diversa, e questo permette di suonare dei bassi e quindi delle ritmiche in contemporanea a delle parti più, cioè all'armonia che si suona invece con le corde più acute, diciamo. Certo, certo, giustissimo. E questa cosa permette di tenere una ritmica percussiva battente, diciamo, che cioè, dal mio punto di vista mi permetteva meglio anche di andare fuori a suonare da solo. One man band in tutti i casi, no? Sì. Un'altra volta. E poi c'è un fatto di gusto, nel senso, certo, che la mia grande passione, oltre ai cantautori italiani, è sempre stata quella del blues, in particolare Robert Johnson, insomma il blues delle origini, e quindi insomma mi sono divertito, e al tempo stesso mi è sembrato anche di trovare una strada, insomma, che avesse una sua originalità. Certo, io ho letto nelle tue biografie, nelle tue note, che hai suonato parecchie volte, cioè in parecchi locali continuamente. Ma sì, quello è merito più che altro del fatto dell'età che ho, nel senso che non sono uno che suoni tutti i giorni, cioè, al tempo stesso, però quando c'è l'occasione, in 20 anni di attività, certo. un po' di date le ho mucchiate. Ma quando c'è l'occasione ci va a suonare. Sì, poi tra l'altro adesso si sta intensificando l'attività, anche proprio forse grazie al disco, o grazie semplicemente a qualcosa che è scattato in testa a me, perché dal disco in poi, appunto, anche grazie proprio, ripeto, alle collaborazioni, perché diventa tutto più facile. È vero, effettivamente, cresce, come tu hai detto giustamente, allarga gli orizzonti, la voglia di suonare cresce, cioè, è positivo in ogni caso. Questo continuamente mettersi in scena quando capita dal vivo è bello, è positivo. Adesso ci mettiamo in scena, nel senso che cerchiamo i nostri 5 dischi da portare su un'isola deserta. Sono le 23. Sono le 23, dobbiamo farlo, Michele. Allora, questi 5 dischi da portare su un'isola deserta, a tuo piacimento, quelli che scegli te. Allora, disco numero 1 è Rimmel di De Gregori. Ah, come mai Rimmel di De Gregori? Ma è bello, è in ogni disco caso più bello che esista. E poi lo dico proprio senza neanche lasciare una possibilità di dubitare, di contraddittorio, assolutamente. No, questo è un disco che io penso di aver ascoltato 500 volte almeno, e senza annoiarmi, e quindi o sono proprio stupido, che mi piace ripetere, o altrimenti è un disco scritto molto bene, nel senso che ogni volta che lo ascolti trovi dei significati nuovi, e certo, penso che De Gregori lo sappia, però non l'abbia mai detto. e quindi insomma, secondo me è un disco. Qualcuno geniale. ha detto che il più bel pezzo, non dico disco, il più bel pezzo di De Gregori è La donna cannone. Tu cosa ne pensi? Penso di no, però è un fatto di gusto, è un bellissimo pezzo, insomma, anche La donna cannone. Allora, La donna cannone, secondo me, è un testo d'autore. Certo. Allora, io c'è una differenza che mi interessa molto tra cioè si usa molto adesso il termine canzone d'autore. L'autore, secondo me, è importante nel momento in cui rappresenta un gruppo più grande di persone. De Gregori lo fa, nel senso che rappresenta completamente l'immaginario di una generazione. Ho capito. E La donna cannone è un bellissimo pezzo, un romanticismo, cioè dice però delle cose che fanno parte di una personalità privata dell'autore. Ho capito. Secondo me, o forse non l'ho mai capito bene io, insomma, può essere anche quello. E quindi, cioè, secondo me non è il pezzo più rappresentativo, invece, per dire, De Gregori di Rimmel assolutamente contiene proprio un mondo immaginario, ma che assolutamente condiviso da talmente tanta gente d'Italia. Certo, che certo, sono d'accordo con te. Ha un valore diverso per altri motivi, forse. Sì, sicuramente non mi fisso sull'estetica, mi interessa più il valore sociale, certo, della canzone. E per concludere il discorso di Gregori, lui ha detto che Da Donna Cannone è diventato un po' di tempo un disco pesante per lui, opprimente in alcuni momenti. Ah, non lo sapevo. Ecco, ha detto recentemente, poi chiaramente... Però in quel momento ha detto così. Magari averlo scritto. Esattamente. Andiamo avanti. Allora, dopo De Gregori. Dire che la Donna Cannone non è il massimo, sai, proprio fare i difficili. Veramente, hai ragione. Disco, un pezzo meraviglioso. Andiamo avanti. Dopo De Gregori, cosa hai scelto? Li sto scegliendo adesso. Ah, sì, bellissimo così, bellissimo. Dunque. Ci potremmo mettere un disco di Ivan Graziani. Bravo, sull'italiano. Bravo, grandissimo chitarrista. Agnese Dolce Agnese, il disco proprio, nell'insieme. Sì. Bravo, chitarrista, bravo, musicista straordinario Ivan Graziani. Sì. Scoperto, cioè capito non totalmente... Peccato. Non credo proprio che possa essere capito totalmente. Sì, no, ma non forse è stato... adesso che c'è un certo gusto per la cronaca nera, forse sì. Per alcuni risvolti potrebbe piacere per quei motivi lì, però... Ecco, sentiamo i fotodonto, bellissimo, è bellissimo questo pezzo. Era un grande, faceva delle cose meravigliose. Recentemente è stato pubblicato un disco di inedito, doveva uscire un nuovo disco di inediti, eccetera, suo. È un musicista validissimo, l'ho visto suonare 2 o 3 volte e dal vivo era, se mi è consentito il termine, musicalmente una bestia, cioè bravissimo. Sì, sì. Era fantastico, l'ho visto 2 o 3 volte, era incredibile. Ok, benissimo, dopo Ivan Graziani. Ivan Graziani e Johnny Mitchell e Gira. Hai scelto un disco molto difficile. Cambia molto rispetto a questi 4. Hai scelto un disco difficile, molto jazzato, non è Mingus però. Il bassista Pastorius, quello è il massimo, se puoi dire, il massimo dei bassisti. In quel disco lì mi ha ossessionato. Ho sentito la canzone Walk on the Wilds, quella di Lurite. La canzone, la prima, sì, il disco Coyote. L'ho sentita per radio una volta per caso e poi non sapevo cosa fosse. Ho iniziato a girare per i negozi di dischi a spiegare che c'è un giro di basso stranissimo, particolare, poi, e quindi con l'aiuto dei negozianti di dischi, che comunque sono per fortuna gente molto competente, ho scoperto tutte le cantautrici americane di quel periodo, ma meno che lei. Carly Simon, certo. Imparato, perché tutti sforzandosi di cercare di capire cosa cercassi di fischiettare, perché poi l'avevo sentito una volta o due soltanto. Ma giustamente, dimmi. Quindi mi hanno indirizzato in tanti modi e ho comunque ampliato molto gli orizzonti. Comunque poi ho scoperto che era Johnny Mitchell, è un disco che mi ha... insomma, mi ha cambiato abbastanza il modo di vedere. E dobbiamo dire una cosa molto non interessante, la verità: grazie a Johnny Mitchell c'è stata l'esplosione del cantautorato al femminile. Grazie a Johnny Mitchell in America c'è stata proprio tante cantautrici al femminile, grazie a Johnny Mitchell. A Blue, disco meraviglioso secondo me, e te ne ha fatte tante, ne ha scritti tanti dischi Johnny Mitchell. Lauren Kenyon ha scritto Woodstock, ragazzi, e tante robe meravigliose, quindi è stata lei. Woodstock la facciamo come cover con il gruppo, nella versione quella di Crosby, Stills, Nash, che esattamente, è più rock, però l'ha scritta Johnny Mitchell, ragazzi, quello è sua, al 100%. Benissimo, e dopo Johnny Mitchell? Abbiamo ancora 2. Allora, tu a dire 5 è poco, lo so. Sì, si fa fatica perché effettivamente, ma puoi ampliare. È perché adesso mi viene in mente un italiano, però io ho ascoltato anche molta musica straniera, non vorrei, però Pino Daniele Nero a metà, secondo me è un disco favoloso. Sì, quando vado in autostrada, anche lì, se ho un viaggio, se ho un viaggio appenninico in particolare da fare, devo mettere su subito. Quell'autostrada è un muro pieno di felicità. Ti dà la spinta, per andare avanti, chiaramente. Sì, e poi che musicisti, fini, grandissimi, grandissimi. Lui era un grande musicista. Anche quello, se negli ultimi... anche quello è uno dei più bei dischi della musica italiana. Cioè, sono d'accordo con te. Vabbè, ha avuto successo al periodo... Ecco, ha messo un pezzo da Michele di... Io sono pazzo. Il soppasso, un classico di Pino Daniele, veramente. Sì, lui è un grandissimo, anche se posso dire una cosa, non so se sei d'accordo, negli ultimi dischi è un po' di maniera, non so se cosa dici. Ma vabbè, magari è un po' stanco. Sì, la voglia di urlare che sia magari da sconosciuti o, da, o da poco conosciuti. Non è da, non quello da molto sempre, conosciuti, è diverso. Ci sono altre motivazioni, anche se però non è del tutto vero, però lui è sempre un artista validissimo, eccetera. Ne abbiamo ancora uno, Fabrizio. Poi adesso a questo punto diventa il più difficile, a questo punto ne esclude, ne esclude degli altri. Non vuol dire assolutamente niente, non vuol dire l'ultimo, è solo il quinto in ordine, così, tanto per cambiare. Guarda, dimmi. Faccio il fighetto. Va bene, ok. Colin Blunstone è un musicista americano che ha fatto delle cose molto belle. Non è notissimo in Italia, però, e quindi sparo quella cartuccia lì. Benissimo, una cartuccia. Però ti dico veramente che rimangono fuori talmente tanti. Lo so, tantissimi. Lo so, ma 5 sono 5, volutamente pochi. Potremmo ampliare. E poi Diaframma. E poi Diaframma. Come mai Diaframma? Diaframma... Non è un gruppo famosissimo in Italia. Anche un I Diaframma sono una cosa che... Fiumani ti piace tanto? Sì, direi che... sono una delle cose che ti fanno dire allora gli anni 80 un senso l'hanno avuto e quindi sono adesso parte gli scherzi però dopo negli anni 80 i cantautori sono assolutamente tramontati, nel senso che quelli che hanno quelli che hanno iniziato a emergere da quel momento erano abbastanza più commerciali, insomma non erano sinceri. Sono d'accordo. Poi magari ci saranno le eccezioni, non voglio... Poi Diaframma era un Diaframma. Diaframma, sì, e poi in quel periodo lì c'era anche Andrea Chimentico in moda. Sì, esatto. Poi... Che adesso fa il giornalista musicale, però in moda, lui fa il giornalista di un mensile musicale famoso di rock. E allora... Flavio Giurato, lo conosci? Flavio Giurato, lo conosci? Sì, conosco il disco di Flavio Giurato. È il tuffatore. Il tuffatore è più famoso. Esatto, il disco ne conosco, sì, quello lo conosco. È un altro musicista molto importante, molto interessante, che aveva un suo ruolo praticamente. Non era famoso, ma non è vero che non fosse stato famoso, aveva il suo pubblico decisamente. Sì, ha creato delle nicchie che tra l'altro durano ancora adesso, nel senso che i concerti di Federico Fiumani ci sono... c'è sempre un pubblico di fedelissimi, certo, che conoscono tutte le canzoni. Anche le ultime, visto che lui sta produce sempre in continuazione. E dobbiamo sottolineare che i Diaframma hanno aperto molte strade per tanti gruppi nuovi italiani. Sì, infatti sono sorpreso di vedere come stanno uscendo tanti gruppi di ragazzi che conoscono i Diaframma. Io ai miei tempi sapevo di essere un caso abbastanza raro, anche perché dei Diaframma... A me interessa più il periodo cantautorale che non quello... Un po' più rockettaro. Sì, quello più dark. Insomma, esattamente, degli, un po' più duro. No? E quindi evidentemente anche sentire questi gruppi che stanno venendo fuori adesso, siamo in tanti ad aver avuto proprio quell'esigenza rivolta a questo nuovo, ma sono vent'anni. Vent'anni che sono. Però questo suo secondo periodo. Esatto. Ecco. Lui ha avuto sempre il problema che non è mai sceso a compromessi. È quello. Vabbè, ma è un problema, per modo di dire. Non è mai sceso a compromessi, è sempre andato avanti per la sua strada. E così è andata. Però va bene così, perché lui è bravo, è veramente un Forse... artista straordinario. Sì, io adesso non so privatamente come viva lui questa cosa, però... devo dire che i risultati si vedono indubbiamente, e davanti a lui ci si toglie il cappello, davanti ad altri no. È vero, questa è la ragione. Ok, adesso ci togliamo il cappello un'altra volta, perché suoni te adesso. Cosa suoni di bello adesso? Ma se ti va, La strada in riva al mare, quella è una canzone parlata. Sì, esattamente. Sì, esatto, è un po' parlata. Sì. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. c'è una strada del sole, c'è un bambino che non capisce le parole, c'è il mare da una parte e da quell'altra ci sono i vecchi che giocano a carte e poi una vela è lontana dalla riva, c'è una rete che non pesca e tra i pensieri alla deriva qualcosa che resta. Scorre tutto insieme al mondo e ogni minuto è come un bacio ricevuto, un bacio ricevuto. Prezioso ogni abbraccio, di saluto, di commiato. Ma c'è una strada e c'è il sole e in mezzo un sacco di parole. Quelle belle arrivano dal mare e poi vanno via come navi di perline. E non saper nuotare, fermarsi sulla linea di un confine, guardare a bocca aperta. Sole, strada, vecchi, mare, sogni, favole vere, storie inventate, un veliero da varare, un giardino con le fate, una stella che tarda ad affondare. C'è davvero, è dall'altra parte, finché iniziano le montagne. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Benissimo, sì, giustamente un pezzo quasi parlato, anzi parlato con la musica nel sottofondo. La scelta di questo pezzo parlato con la musica nel sottofondo riempie sempre il solito discorso del reading che qualche volta tu fai in giro per i locali, quando suonavi, quando suonerai, eccetera, da solo. Sì, è un sì, viene proprio da quell'atteggiamento, da quel modo lì di pormi, insomma. Decisamente, quindi sviluppi anche questo discorso praticamente, tenti di svilupparlo praticamente, allargando gli orizzonti anche su questo punto di vista. Perché qua c'è un pezzo parlato vero e proprio, c'è solo questo nell'album. Sì, è l'unico. A me piace molto variare. Sì, poi in particolare l'uso della parola non cantata, piace molto anche quello. Fatico quando faccio una cosa, fatico a non far quell'altra e viceversa. Un po' Emilio Clementi. Non lo conosco. Non lo conosci? Va conosciuto. Sì, praticamente praticamente lui ha una band, lui è un poeta, declama e la band chiaramente adesso la band si è sciolta, si è ricostituita di recente. Lui è un poeta Emilio Clementi, un poeta toscano, parlando di diaframma, quindi ci siamo tutti, diaframma, e declama, quindi c'è questa band che suona anche suono anche duro, rocchettaro al 100%, e poi fa il poeta. Anche tu fai il poeta in questo momento, cioè con la musica nel sottofondo. Non è una poesia anche la tua. Cosa dici? Va bene, ti ringrazio. Insomma, io penso, lo prendo come un complimento. Sì, ma è un discorso, sì, perché no? Io di solito non mi considero un poeta. Sì, cerco di non, cioè uno in questo momento hai declamato anche te un certo discorso, hai parlato di un certo discorso con la chitarra, praticamente con la musica. Sì, io tengo molto a passare delle immagini e spero che questo il disco fa parte di queste immagini, praticamente. Sì, è un complesso di immagini che cerco di trasmettere. La musica mi aiuta, non è il punto di partenza, appunto la musica è più il testo di solito. E spero che queste immagini creino un immaginario, tutte insieme. Okay, sì. E che questo immaginario serva a star meglio, a vedere il mondo diversamente. Adesso ho fatto un discorso quasi new wave, new age, ma non volevo. Però è positivo anche questo. Il discorso di nell'album ho notato, ci sono pezzi un po' più mossi, un po' meno mossi, un intervallo, uno sì, uno no, uno sì, uno no, volutamente sempre così. Sì, guarda, la scaletta era un mestiere così difficile che nel momento in cui Max Scaccaglia, il bassista, è arrivato con un foglietto con su scritto l'ordine dei pezzi dicendo guarda, secondo me andrebbero bene così perché è giusto, li ho letti un attimo e ho detto sì, basta, era così, doveva essere così, insomma. Sì, sono quelle cose che se le decide qualcuno che è convinto di quello che dice, mi va benissimo. E tra l'altro, insomma, anche Max è uno di cui fidarsi. Chiaramente. Quindi... Una cosa non ti ho chiesto, non mi ricordo se tu abbia tu fatto la domanda. Sono pezzi recenti questi qua o sono pezzi un po' più vecchi? Sono recenti nel senso che avranno 3 o 4 anni e che da quando ho fatto questi ho iniziato a lavorare per il disco e quindi al momento del disco erano attuali anche se avevano già un paio d'anni. Ho capito. Sì, è stata una lavorazione lunga, appunto, certo. Come ti dicevo. Non è allora un greatest hits, praticamente, cioè i pezzi migliori a tuo... No, vado per aree e poi ho un'anima melodica che probabilmente, avendo ascoltato questo disco, non puoi conoscere. Esatto, sì. E poi... Quindi hai diverse anime musicali, quella melodica che si sente e non si sente, quella blues che si sente notevolmente, e poi l'altra anima che cos'è? Hai qualche altro segreto? Sì, ho delle cose anche più jazz. Anche jazzate, che qua non si sentono poco, almeno non si sentono. Insomma. Sì, sicuramente ho cercato di essere semplice, volevo esserlo. Insomma. Ma c'è la possibilità che venga fuori anche quell'anima da jazz, oppure no, secondo te? Ma io spero di sì, adesso... fare un disco costa non capiterà tutti i giorni di farlo però ti assicuro che se in questo momento avessi la possibilità avrei già due album in testa già pronti. e di sonorità molto diverse tra loro e diverse da questo. Bene, questo è positivo secondo me, quindi tante diverse facce della stessa medaglia. La stessa medaglia sei te, con tutte le evoluzioni sonore, non è mica una cosa semplice. Bello, bello. Benissimo, 23 e 20, abbiamo deciso con Fabrizio di suonare, lui ha detto, sì, suoniamo, cosa ci fai sentire adesso? Mezzo sogno l'abbiamo fatta. Mezzo sogno l'abbiamo fatta, sì. Se ti va il botto è una canzone a cui... Ci tieni molto. A cui io tengo, sì. Vabbè, adesso lo sentiamo assieme, ok. Rock Wave. L'onda del rock. Entrano ad uno come invitati ad una festa triste, dalla strada, dalle campagne, la budella di periferie. Regola numero uno, fare di tutto per non dar nell'occhio, prima o poi la voce chiama te che è il tuo nome, già lo sai fin troppo. altro. Regola numero due, essere contenti quando fuori piove, quando il sole brucia la faccia, chi fa ancora buona caccia. Regola numero tre, non fidarti di nessuno, non guardare quando gli altri guardano te, conta i passi dentro al buio. Ogni uomo ha un racconto da fare, è un conto da sistemare, una mente per lavorare, sogni da coltivare, c'è il tempo da far passare, un canto da ricantare, ricordo di un amore poi ti passa, ma non passa. Quando il buio ti spaventa, non respirare, non respirare. Aspetta che la goccia scenda sui pensieri che devi scacciare. E se capisci che non basta, allora sei grande, non devi aspettare. Regola numero 4, chi aspetta diventa matto, e dalla legge che non distingue nasce la regola numero 5. Un uomo in piedi va al 10 in ginocchio, questa storia finisce col botto. Ogni uomo ha un racconto da fare, è un conto da sistemare, una mente per lavorare, sogni da coltivare, c'è il tempo da far passare, un canto da ricantare, ricordo di un amore poi ti passa, ma non passa. Ma non passa. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, un critico ha scritto, non so se sei d'accordo, che tu hai una voce di velluto ruvido. Cosa ne pensi di questa definizione? Grazie. E qualcuno ha scritto anche che ti avvicini, e sono d'accordo con questo, a Graziano Romani, sono d'accordo con lui. Sai che non lo conosco, è un musicista rock. Da quando ho letto quella cosa lì mi sono ripromesso di ascoltarlo. Da un gruppo rock... sempre delle tue parti, faceva rock molto americano e poi ha deciso di fare una carriera solista, però con rock blues nel sangue, secondo me. E non sono d'accordo con questo critico che ha scritto così, perché è vero, c'è qualche... Vabbè, mi dai un motivo in più per andarlo a cercare. Esattamente, secondo me è una cosa positiva, un ottimo, un grande musicista che ha tanti anni che suona, ha una carriera, parecchi dischi con gruppo e da solo. È un musicista validissimo e ha quella tendenza al rock blues, ma fatto bene, fatto all'italiana, volutamente suo. E io sono d'accordo con questo che ha scritto così. Quindi questo velluto ruvido è la tua voce, velluto ruvido, non so se sia proprio giustamente la definizione. La tua voce è il tuo modo di scrivere, di andare avanti musicalmente parlando. Sì, io adesso questa cosa, la caratteristica della voce, fatico a giudicarla, però il... la ruvidità è un ruvido è un termine che uso molto anch'io quando parlo di musica, ed è una caratteristica ad esempio che riconosco a Federico Fiumani, più per le canzoni magari che per la voce, e sì, è una, secondo me è una caratteristica da cercare. Tu lo sai che prima lui non cantava, lui scriveva solamente i pezzi. Sì, sì, infatti, ecco, lui cantava Sassolini, Sassolini. Sì, esattamente. Lui non cantava, scriveva i pezzi. Poi ha deciso di voler cantare e ha cominciato a cantare. Sì, infatti mi ricordo i primi cori, li faceva in box, nell'album box, sì. Si sentono i primi cori di Federico. E poi chiaramente ha ampliato l'orizzonte, è diventato Federico Fiumani che tutti conoscono, giustamente come tu... hai detto prima, è un po' di nicchia, ma non è un di nicchia fino a un certo punto. Io ho visto nelle compilation anche di musica, di modo, non c'è, come dire, del rock italiano, c'erano parecchi pezzi di Aframma, tutti e due, quindi di nicchia sempre tra virgolette. Ma sì, penso che la critica lo tratta benissimo, sì, è molto amato, è benissimo amato. Non ha avuto il successo che meritava, perché come abbiamo già detto io e te prima, non ha peli sulla lingua su certe cose, va avanti per la sua strada, non ha interruzioni, nel senso barriere, lui va avanti, quella è la sua musica e basta. Un'altra cosa simile sono i Virginiana Miller, similari su quella strada, cioè vanno al di sopra di tutte le discorsi del mercato, dei giochi discografici, assolutamente, vanno avanti, corrono autoprodotti anche loro, hanno trovato un'etichetta dopo 2 anni di ricerche, quindi anche loro, però vanno avanti, non si fermano, e Fito Ghio Formiale è la stessa cosa, quella è la sua musica, e anche Fabrizio Fabri vai avanti anche a te per la tua strada. Sì, insomma, io finora sì. No, tra l'altro, insomma, se vogliamo essere del tutto sinceri con il mercato che c'è, con le possibilità che ho io, non sarebbe assolutamente inutile e abbastanza stupido fare un disco per il pubblico. No, un disco lo fai perché piace a te, e poi se piacerà anche al pubblico tanto meglio, insomma. Nel senso che sì, ho capito. Non essendoci... Ma i dischi non si vendono più, si vendono solo... concreta di vendere i dischi. Si vendono solo nei concerti i dischi praticamente. Oh. Sì, sì. Quindi hai la possibilità di venire ai concerti. Sì, certo, questo lo farò. Questo è importante. No, c'è questo, e d'altronde così il mercato va adesso, va in questa maniera. Il discorso di fare il cantautore, tra virgolette, come fai te, i locali, cioè adesso farai sicuramente dei concerti con la band, ma trovi possibilità di suonare nei locali senza tante difficoltà, oppure no? Beh sì, è più facile andare a suonare da soli, cioè, questo è chiaro, sì, che con il gruppo. Io adesso questi pezzi qui li sto portando fuori con un gruppo, cioè li faccio anche da solo, appunto, come li sto facendo stasera, però sono riuscito a mettere insieme un gruppo che mi piace molto, ci divertiamo anche in compagnia, insomma, chiaro. Quindi nell'insieme è bello uscire tutti assieme. E quella è un'impresa un po' più difficile. Trovare un locale, trovare un posto da poter suonare tutti quanti, vero? Un po' più difficile. Sì, è un mercato difficile, anche perché i costi a spostarsi sono ovviamente tanti. Aumentano, in più, certo. Si è, in più, e più sono alti i costi. E, sì, il mercato, diciamo, non offre, non da quel offre. Punto di vista lì. Vanno molto le cover band, sì. Liga Blu e Vasco, visto che Liga uscirà, o è già uscito col nuovo album, quindi ci sarà un ritorno sempre maggiore delle cover band. Io delle cover le faccio nel live. Che cover fai? Ma di cover facciamo... aspetta, vediamo il tuo libro magico. Facciamo Remember dei Free. Non puoi mica farlo adesso da solo? Con l'acustica di Remember the Free, se vuoi sì, ci proviamo. Non rende come non in importa, gruppo, perché è un pezzo molto elettrico, lo so che è molto elettrico, però lo puoi fare anche creare in acustico, se la fai. se vuoi proviamo magari, dai, facciamo così. Se risulta pesa, fatta da solo, la chiudiamo dopo, sì. Dopo una strofa, va bene. Facciamo così, proviamo il pezzo storico dei Free, grande gruppo i Free. Aspetta che cerco anche un pletto, dai, facciamo con il pletto, già che non siamo elettrici, almeno certo. Un pochino poi più, ti vedo stanno guardando un po' più tutti, duro. Tutti quindi come stai preparando, è bellissimo così la preparazione del suonare con lo strumento, una cosa diretta a rockway.latervista.org. Stanno vedendo immediatamente quello che stai facendo, ok? Adesso partiamo. Rockwave, l'onda del rock, l'onda del rock. Do you remember every morning we would dress and we'd be stealing in the street where people meet? We would wander around in the northern heat. these days are gone, my baby. Now I'm all alone. I wish I had you near me. Baby, I wish I had you near. In the summer, days were lazy, sometimes the heat would drive us all crazy. Singing song all night long, with the light through the window, said another day had come. All these days are gone, baby, now. Now I'm all alone. I wish I had you near me. I wish I had you here. Mi è venuto in mente adesso come andava suonata. Sono tutte cose che succedono dal vivo a Rock Wave. Sì, e poi non mi ero mica preparato di farlo. Appunto, questo. Per quello c'è un po' di adrenalina in tutti i sensi, però è bello così lo stesso. Cioè, tu dal vivo fate rimembra questo pezzo dei Free e qualche altro pezzo di cover famose fatte dal vivo oltre ai Free. Sì, facciamo Woodstock di Johnny Mitchell. Johnny Mitchell è una versione un po' più Crosby, Stills, Nash, insomma più rock. No, la versione di Southern Comfort, la ricordi la versione di Southern Comfort? No, non la conosco. Quindi. Ecco, è un piccolo, no, è un particolare. Il successo di Woodstock, che è stato scritto da Johnny Mitchell, poi è stato interpretato meravigliosamente dai Crosby, Stills e Nash Young, è stato lanciato nel mercato americano dai Southern Comfort, era un gruppo folk inglese di Ian Matthews. Ian Matthews faceva parte dei Fairport Convention, poi è andato negli Stati Uniti e ha fondato questo Southern Comfort, questo gruppo folk rock, country rock, un po' di tutto, e ha dato una versione di Woodstock meravigliosa, leggermente folkeggiante, e è andato nei primi 5 nelle classifiche americane di singoli, una volta che c'erano i singoli, lanciata, scritta da Johnny Mitchell. E anche questa allora cercherò. Ma se la trovi, recentemente è stato pubblicato un disco, una raccolta di Southern Comfort, un doppio album, sai, quelle confezioni deluxe, tutte queste cose particolari. E vedrai, sarei soddisfatto perché Ian Matthews era un grandissimo, ed è un grande musicista inglese, scusate, che vive negli Stati Uniti. Ha fatto un sacco di dischi da solista, però ha cominciato con Matthews, si chiamava Matthews Southern Comfort. Questa è la dicitura esatta della band. Bene, e mi ricordo Augusto perché sono stati lanciati da loro. Domani so cosa andare a cercare. Perfetto, visto che tu ami cercare queste cose, come ho capito. Anch'io amo cercare queste cose. A me... Per esempio, cosa pensi della... Adesso c'è un ritorno del vinile. Ma io sono molto comodo a usare i CD. Certo, tutti siamo comodi a usare i CD. Però ho un bellissimo piatto, uno Scott americano. Di cui... no, lo dico con un pochino di feticismo. Perché... uno Scott americano. Sì. Lo conosci, Michele, lo Scott americano, il piatto? Non lo conosci? Sì, un altro tipo di quindi uno Scott americano, dimmi dopo. E poi cerchi i dischi in vinile ora praticamente. Dischi in vinile no, quelli vecchi. Quelli vecchi, sì. Adesso sono stati ristampati. Adesso vado soltanto su CD, insomma. Beh, il Gira era doppio, ti ricordi, no? Il Gira era doppio in vinile. Io ce l'ho su CD ed è uno solo. Ma il disco era doppio. Non lo sapevo. No. Era doppio, il vinile era doppio, della famosa etichetta. Dimmi, tra l'altro, attraverso il Gira ho conosciuto gli LA Express, che sono stati un gruppo che ha accompagnato Johnny Mitchell nel periodo, diciamo, pop jazz. E sono un altro gruppo da andare a cercare. Da questo cercare. Mi veniva in mente perché un disco doppio, proprio Miles of Files. Che è un disco penso abbastanza difficile da trovare. Di anche Mingus era doppio per Johnny Mitchell. Ah, Mingus, sì, quello bianco. Quello bianco, esatto. E ha fatto numerosi doppi album Johnny Mitchell. Io amo particolarmente la Johnny Mitchell di Blue. sì. Quello lo trovo meraviglioso come disco, proprio. A me piacciono i successivi, come gusto. Ma è bello lo stesso, cioè sì. Uno ama determinate cose. Sì, ma mi piace anche Blue. Ah, beh, chiaro, insomma, Blue è un disco epocale, a mio parere. Dicevano che Johnny Mitch e Carole King, come abbiamo detto prima, sono state quelle che hanno allargato gli orizzonti del cantautorato, non solo americano, sì, ma mondiale. Carole King, che ha fatto Tapestry, quel disco epocale, anche quello. Hanno allargato, sono diventate cantautrici molte ragazze, grazie alla strada tracciata da Johnny Mitch e da Carole King, praticamente. E ti dico che adesso con le. Con queste collaborazioni che ti dicevo mi capitano, sto conoscendo dei ragazzi giovani, anche di 20 anni, 22, che conoscono Johnny Mitch. Io ho passato una vita a non poter comunicare con nessuno cosa provavo a sentire Johnny Mitch. Invece conosci, adesso trovi dei ragazzi di 20 anni che conoscono i dischi di Johnny Mitch. Meraviglioso, secondo me. E non solo, insomma, tante cose. Prima dicevi Diaframma pure. Probabilmente a forza di sentire soltanto delle cose scadenti, probabilmente si sta sviluppando una forma di resistenza. Si sono stancati praticamente. Sì, probabilmente sì. Evidentemente anche dagli allevamenti più intensivi vengono fuori, come diceva vengono Gabe, fuori anche i polli sbagliati. No, come diceva Gabe, quei polli di allevamento, qualcosa. Ah, sì, esattamente. Sì. Quindi. Benissimo, 23 e 38, bella conversazione con Fabrizio di tante cose positive e della sua musica. Vuoi riposarti un secondo? Facciamo sentire un altro pezzo del disco? Cosa dici? Sì, sentiva, sì. Che traccia vuoi far sentire del disco? No, disco da disco, non da... Sì, da disco, da disco. Da disco. No, sto guardando qui perché sto guardando Mille la notte. E che la traccia, ti ricordi che numero è? Un pezzo lento, no. La traccia, Michele bravissimo, l'ha già vista. Andiamo a sentire quel pezzo là, così ti riposi un poco e poi andiamo a cavalcata verso la fine, ok? Va bene? Rock Wave, l'onda del rock. Ogni attimo nella gabbia del torace, frazione del mio battito, contro al mio petto. Sei mille volte bella, mille volte bella. Sei mille volte bella, mille volte bella. Mille e sorrido, riprendo il volo. Guarda, mi butto, scendo e sorrido. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok. Beh, ricordiamo delle cose importanti. Innanzitutto il disco l'hai tu autoprodotto. Sì, esattamente. L'ho autoprodotto, ho avuto anche il sostegno, anche pratico, dell'associazione Parma che si parla, dell'associazione Rediminuito. Sono... ti danno una mano praticamente anche su questo, ti hanno sì. Ti hanno aiutato, ecco, per far questo. Sì, sono, e la copertina che è molto, che è molto bellina, chi l'ha fatta? Molto la carina. Copertina l'ha fatta Beatrice Fontana, che è una splendida grafica. Bravissima, sì, molto bella, molto significativa. Sì, sono contentissimo del lavoro che ha fatto. E, ha messo insieme delle fotografie che sono negli archivi della mia famiglia, nel senso che la foto di copertina è di mio papà. E è una copertina che, cioè, è una foto che ha, secondo me, 30 anni abbondanti. Bello, a me sembrava, poi abbiamo parlato molto di quello che doveva essere il concept della copertina, no? E a me sembrava che desse un'idea di America in Italia, quello, non so se è le strade di San Francisco, sì, esattamente. No, però ambientate in Italia, una località segreta, sconosciuta, cioè tu conosci, che io non conosco, sconosciuta, ma che non dirò. Bene, bene, siamo come segreto. E adesso ricordiamo il tuo sito, quello è importante. Sì. Il sito è www.fabrizio.frabetti.it. Perfetto. E sul cognome si sbaglia. Spesso perché... volentieri con l'R si sbaglia. Sì, Frabetti. Esattamente, Frabetti. E poi cosa ci può trovare nel tuo sito oltre a... Beh, ci sono, vabbè, a parte note biografiche, qualche canzone in download. Mi sono deciso a metterla. Bene. Così, perché mi interessa più far conoscere, insomma, le canzoni che... E poi un'altra cosa, c'è la possibilità nel tuo sito di comprare il disco, praticamente, di acquistarlo. Adesso non c'è niente di automatico che permetta di comprarlo, però ci sono i contatti comunque per mandarmi un'email, lo spedisco volentieri, insomma. Chiaramente. Allora, facciamo così, abbiamo deciso di far così, di far sentire dal disco il primo pezzo che parla di questa autostrada famosa di Parma, le Stelle della Cisa. Le Stelle della Cisa, esattamente. Sì, è un pezzo che apre la finestra del disco, pezzo ben sostenuto, divertente, ben fatto, rocchettaro tra virgolette, che ne pensi? Sì, penso di sì, che sei d'accordo? Sia rocchettaro, poi la batteria di Elliott è stata veramente la base per costruire su qualcosa di abbastanza... cattivo. Sì, cattivo nel senso positivo del termine, sì, cioè certo. ti fa muovere, ti dà un movimento, no, tensione nel senso negativo, nel senso positivo, l'ha dato uno spunto e poi voi certo. Avete lavorato chiaramente. E poi sai, l'autostrada della Cisa, considera che per chi abita a Parma vuol dire sia autostrada che... Vabbè, adesso diventa difficile connotare positivamente l'autostrada al giorno d'oggi, visto la quantità di macchine che ci sono. Insomma, però l'autostrada della Cisa è un po' meno trafficata, quindi è anche abbastanza gustosa da fare. Poi sono belli i panorami e poi soprattutto è la strada più corta per andare al mare. Ecco, quello è importante. E quindi c'è... non so, c'è una sensazione particolare che si prova, che provo io, che ho quell'esperienza lì. Di andare al mare attraverso la Cisa, c'è una sensazione particolare che provo, che contiene l'energia e al tempo stesso anche l'ambientazione giusta per fare qualche pensiero, perché poi quando passi sui cavalcavia, dipende dai periodi dell'anno, però riesci anche a sentirti abbastanza solo, pur essendo in autostrada, anche lì è difficile in autostrada ormai sentirsi abbastanza solo. Esattamente, è tutto dire. Bene, ok, la sentiamo allora, Le stelle della Cisa, che apre l'album di Fabrizio. Adesso la sentiamo da disco, però, ok? Rock Wave, l'onda del rock. Guardare il cielo, levare gli occhi dalla strada. Vietato guardare, vietato guardare, sognare un passeggero. Vietato avere paura dell'altezza, vietato avere nostalgia, cambiare la corsia. Ah, ah, ah. Il mare dentro agli occhi e nebbia nei pensieri. Il mare nei tuoi occhi, tortuosi miei sentieri. Assurdi cavalcavia, poi in galleria. Sulla paura dell'altezza, su assurdi cavalcavia, poi in galleria. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sì, siamo verso la conclusione, ma non abbiamo ancora finito, Fabrizio, abbiamo ancora 10 minuti buoni per far sentire due canzoni dal vivo, questo chiaramente. Ricordiamo, diretta rockwave.altervista.org, ci potete sentire e vedere, quindi vedere Fabrizio che canta e suona stasera anche questo suo repertorio, e ha citato e anche fatto sentire una cover dei Free, non è mica niente di negativo, è molto positive. Free era un grande gruppo. Sì, ma ho sbagliato un accordo dall'inizio. Ah, hai sbagliato un accordo dall'inizio. Cioè, rivolto, perché suonava meglio fatto in un altro modo. Va bene, hai fatto lo stesso, dai, insomma, non è mica semplice suonare un pezzo di Free, da in chitarra acustica, di solito si fa con la chitarra, sì, elettrica. Non è proprio il suo. Non è proprio il suo, rock blues, dai Free, grande gruppo. Bene, quindi... parlando di questo pezzo, di questa Le stelle della Cisa, già bello, Le stelle della Cisa, sì, quando passi di notte qualche volta su questa autostrada, allora. Sì, beh, soprattutto sono i ritorni di notte, i ritorni quando, dopo il mare, praticamente. Dopo il mare, sì, giornate intense di spiaggia e poi e via. Ritorno alla notte. Ma le code si fanno lo stesso anche là? Beh, capita. Capita qualche volta. Soprattutto nei periodi di punta proprio delle... dei cambianti, sì, di quelli che vanno, no, di periodi di punta proprio della spiaggia, sì, sì, cioè, certamente la domenica sera, ad esempio, tornare un po' problema. Sì, conviene non iniziarne anche. Sì, stare a casa direttamente. Sì, stare a casa o stare al mare. Stare al mare. Quello che conviene di più di solito. Ecco, stare al mare e andare di tornare a lunedì praticamente. Ecco. Per chi può. Però musicalmente è un pezzo vivace, divertente, un po' di rock and roll, di rock and roll. Cioè, fa muovere la gente e apre bene la finestra dell'album praticamente. Cosa dici? Al di là del grande apporto di Elliott, ci sono anche gli altri, chiaramente. Sì, poi in quel pezzo lì c'è Lelio Padovani, il chitarrista, è splendido, insomma, secondo me... Ha fatto un bel lavoro. Sì, tutti gli strumentisti, dal primo all'ultimo, non hanno soltanto suonato, ma hanno capito il disco, hanno capito i singoli pezzi e insomma hanno... Vabbè, insomma, non erano gli ultimi arrivati. No, esattamente. L'esperienza è quella cosa lì. Hanno capito quello che volevi dire te e gli hanno sviluppato un discorso ottimale. E dal vivo li sviluppano ancora. Cioè, altri musicisti continuano a sviluppare questo discorso. Sì, diversamente e ottimamente, secondo me. È effettivamente un gioco di combinazioni, esatto, che non finisce mai, finché ci sono delle persone con della fantasia e delle capacità, non c'è un limite. Perfetto, hai detto giustamente un gioco di combinazioni. A proposito del gioco di combinazioni, adesso facciamo il penultimo pezzo dal vivo. Cosa ci fai sentire allora? Adesso mettiamo a posto la chitarra, eccola qua. Tutto dal vivo, anche lo spostamento della chitarra, non c'è niente di prefabbricato. Allora, questa canzone è Semicolorati. Benissimo. Rock Wave. L'onda del rock. Visioni d'Africa sulla statale. È la strada della mia estate. Prospettive di caldi ritorni. Perché non tornate? Scorrono ai lati come nubi. E come il cielo non fan più paura. Come porti sicuri. Van bene finché dura. Finché dura. L'Asia dei giardini mi guarda tramontare, sorride con volti di bambini, i suoi semi da annaffiare. Aria di temporale riempirà gli argini del fiume. Non vale la pena di arginare, il fiume non è strada, la strada non va in mare. Sono colori da mescolare, facce diverse dalla montagna al mare. Il fiume le guarda passare, il fiume sì, il fiume sa. Aspettare, scorre lento, sembra quasi dormire, poi scopri che lui è a venirti a cercare, il fiume che ci fa incontrare, il fiume sì, il fiume sa, inventare. Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Veramente, posso dire una cosa? Questa era la terza canzone che avevo... ero incerto di mettere, mezzo sogno, e questa era la terza nella mia scaletta ideale. Bellissima, secondo me, trovo. E l'hai fatta benissimo. Lenta, ma con molto pathos. No, sei d'accordo? Grazie. No, io l'ho sentita così, devo dire. 23:57, abbiamo finito. Abbiamo finito questa cavalcata bellissima, secondo me, nella tua musica. Abbiamo presentato praticamente tutto l'album, o quasi, insomma. Penso tutto. Sì, penso tutto. Abbiamo ampliato tutto l'orizzonte. L'album si chiama Who, UH punto esclamativo. L'album è prodotto da te, è arrangiato da te e da altra gente praticamente. L'autoproduzione è completamente la tua. È il primo disco. Speriamo che ce ne siano altri dischi. Cosa dici? Spero tanto di sì, perché, visto che perché mi diverto a farli. Ti diverti, ci vuole pazienza, ci vuole tanto tempo, però visto che ha tante cose nel cassetto pronte, è là. Si sa mai. Sì, speriamo. No, speriamo di saperlo. Ok, grazie a tutti. Allora, grazie alla grazie a voi. Grazie a voi, a Fabrizio Frabetti, che è venuto qua a suonare dal vivo il suo disco. La prossima settimana avremo i Tempi Duri, musicista dei Tempi Duri, Carlo Facchini, ex Tempi Duri. Non so se ti ricordi i Tempi Duri di Cristiano De André. Ci parla degli anni 80. Carlo Facchini ha ricostituito la band e verrà a suonare qui da noi. Grazie a Fabrizio, questa sua cavalcata termina con quale pezzo? Vediamo il libro, eccolo qua. Posso fare una cover? Ma quello che vuoi, puoi fare. Faccio una cover di Pierangelo Bertoli. Ah, bello, bello, bello, bellissimo. Questa canzone si chiama Canzoncina, mm-hmm. Una canzone breve, e che è un inno alla libertà. Bello, bello, bellissimo. Grazie a Fabrizio, grazie al mitico Michele Tosoni in regia. Ci sentiamo la prossima settimana. Buonanotte a tutti. Rock Wave, l'onda del rock. Vorrei la voce forte che non ho. La musica più dolce che ci sia. Vorrei parlarti frasi che non so. Per dirti che vorrei che fossi mia. Per sbandierarti a tutti all'infinito. Per aiutarti nella verità. Per non legarti ai ceppi di un partito. Mi ha tanto sospirata libertà. Amarti come non ho amato mai. Senza possesso, senza gelosie. Senza l'ambiguità dei parolai. E le culture fatte di bugie. Per darti finalmente a chi ti chiede. E respirare la felicità. Senza inchiodarti al sangue di una fede. Amore mai scordato, libertà. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock.